Radio Wombat. Stone Crack. Al fine di dar conto e giustificare la tirannia dell'uomo, sono state avanzate molte idee ingegnose. Idee volte a dimostrare che i due sessi, nel raggiungimento della virtù, devono impegnarsi a forgiare caratteri diversi. Per dirla in modo più esplicito, alle donne non è accordata forza d'animo sufficiente per acquisire ciò che merita il nome della virtù. Tuttavia, concesso che le donne abbiano un'anima, sembrerebbe esserci un unico sentiero, tracciato dalla provvidenza, che conduce l'umanità sia alla virtù che alla felicità. È ora di effettuare una rivoluzione nei modi di vivere delle donne. È ora di restituir loro la dignità perduta. È ora di far sì che esse, come parte della specie umana, operino, riformando se stesse per riformare il mondo. We'll be right back. Rose to the special serene, rich yet unknown. That drove them, and the heart that fell, and on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias. bel mezzo degli svaghi di un inverno londinese, facesse la sua comparsa alle feste delle famiglie più in vista un nobile, che spiccava più per peculiarità che per ceto. Scrutava l'allegria che lo circondava come se fosse incapace di prendervi parte. Pareva che le risate gaie dei buoni lo colpissero solo nella misura in cui poteva spegnerle con uno sguardo, instillando il timore nei cuori spensierati. Chi avvertiva questo terrore non sapeva spiegare da dove scaturisse. Alcuni lo attribuivano agli occhi grigi e morti che, fissi sul volto dell'osservato, non sembravano penetrarlo, non sembravano giungerle con un unico sguardo al meccanismo del cuore, bensì cadevano sulla guancia con un raggio plumbeo che gravava sulla pelle senza penetrarla. Proprio grazie a tale singolarità riceveva inviti su inviti, tutti volevano vederlo, e quelli avvezzi alle emozioni forti e che ora subivano il peso del tedio londinese erano contenti, contenti di avere intorno qualcosa capace di catturare la loro attenzione. E nonostante il colorito smorto del viso, che è splendido nella forma, nel profilo, però non prendeva mai una punta di colore, né per il rossore della modestia, né per le tinte accese della passione, molte cacciatrici di notorietà, nonostante questo colorito, tentarono di guadagnarsi le sue attenzioni e ottenere perlomeno qualche traccia di quello che potremmo chiamare affetto. Tratto da The Giaour di Lord Byron. Ma da prima prima sulla terra, inviato come vampiro. Il tuo cadavere viene strappato dalla tomba. Poi inizierà una caccia orrenda nei luoghi nativi e succhierai il sangue di tutti quelli della tua razza. La figlia, la sorella, la moglie. A mezzanotte il flusso della vita scorrerà. Ciò malgrado detesterai il banchetto che deve per forza nutrire il tuo livido cadavere vivente. Le tue vittime, prima ancora di esalare l'ultimo respiro, riconosceranno come loro signore il demone, maledicendoti, tu maledicendo loro. I tuoi fiori si appassiranno sullo stelo, ma una che deve cadere per il tuo crimine, la più giovane, la più amata da tutti, ti benedirà con il nome di padre. Quella parola avvolgerà il tuo cuore nelle fiamme. Eppure dovrai terminare il tuo conto, segnare la sua guancia con l'ultimo colore, i suoi occhi con l'ultima scintilla e l'ultimo sguardo vitreo deve guardare chi è che gela il suo blu senza vita. Poi, con la mano sconsacrata, strapperà le trecce dei suoi capelli gialli, di cui in vita un riccio tagliato sembrava a prova del più profondo affetto. Ma ora è rapito dal ricordo della tua agonia. Ancora luccerà con il tuo miglior sangue, con i tuoi denti digrignati, le tue labbra attirate. Poi, aggirandoti sulla tua cupa tomba, te ne vai con Ghoul e Ifrit in furia, finché questi con orrore rifuggono lo spettro maledetto più di loro. Thank you. tratto da I due spiriti, un'allegoria di Percy Bysshe Shelley. O tu, che plumato di Brahma, vorresti alzarti lieve sopra la terra. Attento, un'ombra è sulle tracce del tuo volo di fuoco. La notte viene, lucenti sono le regioni dell'aria, e là, tra I raggi di luce e I venti, gioia sarebbe vagare. Là, la notte viene. Le stelle immortali brillano su. Se io attraverso l'ombra della notte, dentro il mio cuore è la luce d'amore. E quello è il giorno. E la luna sorriderà gentile sulle mie piume d'oro, dovunque si spingeranno intorno al mio volo. Indugeranno le meteore e faranno della notte giorno. Ma se I turbini oscuri svegliano, grandine, tuono e pioggia a tempesta, vedi, I confini dell'aria si scuotono, la notte viene. Rapide, rosse, nuvole di uragano hanno raggiunto il sole che declina laggiù. Lo strepito della grandine incede nella pianura. La notte viene. Vedo la luce e ascolto il suono, veleggerò sul diluvio dell'oscura tempesta. E dentro apro la pace e intorno la luce che fa della notte giorno. E quando la tristezza è profonda e tenace, guarda, dalla tua terra torpida, prigioniera, dalla tua terra torpida, prigioniera, dalla tua terra torpida, prigioniera, il mio volo di luna potrai allora vedere, lassù, lontano. C'è un precipizio, dicono, dove un vasto pino è di gelo e rovina, su cumuli di neve e baratri di ghiaccio, tra I monti delle Alpi. E la tormenta insegue languente lì. Quella forma alata vola per sempre, intorno a quei rami bianchi, rinnova lì le aeree sue fonti. Dicono che quando sono le notti azzurre chiare e morte rugiade dormono sull'acquitrino, o del viaggiatore dei dolci mormorii che fan della notte il giorno. E una forma argentina al suo primo amore simile passa con selvaggi e luminosi capelli, e quando si risveglia sopra l'erba fragante, la notte è giorno.